adesso si rimetterà, speriamo. Sì, domani già prima nostra. Di nuovo il rumore. Eh? Di nuovo il rumore, tu lì. Come sposto a toccarsi il microfono? E adesso ancora? No, adesso sembra lì. Dipende quando sposto a toccarsi. Poi è solo la luce che viene fatta, e io 80 euro. E tu? Il tuo resto non fa anche niente, perché la spesa non fa più. Non mi scusi. Ora la banca non faccio più quanto, anche in più ho comprato. Andavo a comprare una cazzata e recuperavo di più, sempre così forse. Di nuovo il rumore c'hai. E cosa c'hai? È l'energia, cosa c'hai? Io energia. Ma io me l'ho tolta perché era troppo alto come tasso. Io sto pagando i 20 centesimi e loro mi facevano pagare, no, 2 centesimi, loro mi facevano pagare 11 centesimi. E tu con chi sei? Ma aspetta, come si chiama? Quella dell'Agip, come si chiama? Ehi. Ma Eri? E a me mi ha detto io che era a 0,9 centesimi al kilowattora. La mazza gliene pare, invece non è vero. Ma io l'ho già disdetta, comunque non me l'ha fatta nulla. Adesso da primo settembre ne trovo un'altra. È quella che c'ho io, è conveniente. È a 2 centesimi. Adesso non mi è ancora arrivata la bolletta, però mi ha fatto un calcolo con gli stessi kilowatt che pagavo con quella là e che avevo pagato sui 90 euro, con quella lì mi veniva 35. Già, e non ci credere queste cose qua. Allora ti dico un piccolo esempio, perché lo succede, l'ho detto anche l'Ener, io sono dall'Ener. L'energia sempre dall'Ener la prendono meno, la e l'Ener gliela dà grazie con te. Loro ti mettono qualche centesimo in più, poi c'è molto guadagnare anche loro, non si mica fa lavoro gratis. Dato che c'è comune libero che puoi andare da una parte all'altra, o ti applicano il costo della TV, come al solito. Tu pensa, la prima volta io ero a 129 euro a fare il genere. Allora mi è uscito 80, ma la giornata del genere non la para, quindi se la piglia luce. Infatti avevo fatto una domanda a lei, uno mi ha chiamato, dice energia, guarda, ti ascolti, a me lei, io mi sono già informato, sono andato, non mi chiamano al telefono come sta facendo lì, vuole sapere il mio IBA, il mio conto, ma cazzo, chiamo, non mi ricordo più il codice, cosa, trasfusi, se li siete, voi siete energia, io sono già salito fino all'ufficio via provincia, e ho detto quanto c'è, non ho capito meglio, tutto quanto, numero di contattore eccetera, ah, il mondo. Quindi a me mi hanno detto che voi siete una massa di truffatori, perché con la scusa voi mi applicate un'altra cosa, un'altra ditta siete, mi ha chiuso il telefono già, per carità. E io l'ho cambiato perché gli ho detto di canale, era in banca, e me l'ha mandato sul telefono. L'ho richiamati, gli ho detto che gli volevo incanalarti in banca il conto e Torra mi l'ha mandato in coso, in cartaceo. Allora la seconda volta ho telefonato, incazzato meno, ma l'ho presa con quella fumaraccia che non c'entrava nulla. E ho detto tutti i colori, che sembravano calzolati, mettere gente competente, perché quando gli si chiede una cosa devo fare, io sto pagando e devo chiedere quello che voglio. Dice sì, ma lì ha ragione, questo e quell'altro. Ma con che vita era? Devo detto, mettono la lasci per, gli hanno dato il canone più alto che c'è. Faccia questo, gli do un consiglio io, se si fida. Mi ha fatto i calcoli e mi ha detto che praticamente mi veniva molto, ma molto di meno. Adesso vediamo, Tony, come arriva la prima bolletta, mi dà bisù subito. Se non ha detto, non c'è un Quindi sono una massa di buffone comunque, se avviene pure. Io ritorno con lei, non me la frutti nulla già. Io se ce la faccio la mattina sono con lei, torna. Ma dico, ma cosa vuoi fare? Non si può lettura con lei. Saluto già un'altra volta, se dice lì, ma si è messa con un'altra ancora, e per forza voi fate passare mesi, sono sempre con il suo cartaglio, non esce mai, sempre del male. troppo. Poi la prima volta mi hai bucato 190 euro che mi hanno tolto da mia conto corrente, è così, come tenevi la pensione, me ne hai bucato tutto in colpo, avanti mi sfruccio. Avete mandato via i miei, ok, mandavi i miei, tanto arrivi il comunque, ci ha potuto fare avanti. Niente, voglio salire a lei domani, cerco di cambiare, e boh, adesso mi sono avuto la scatola. L'hanno privatizzato, devi sceglierne uno esterno, l'aprilene non lo fa più, praticamente lo privatizza, ma se no te lo dà in automatico, se tu non fai il cambio te lo dà in automatico loro, capito? E vabbè, comunque, provo a chiedere, comunque, non penso che si possa fare, perché l'Enel, siamo al liceo che lo privatizzava, lo era in vice privato. Sì, è tutto privato, tu puoi cambiare quanto vuoi, capito? Quindi, ma io mi sono scocciato, l'ho fatto. Adesso dico, bene, è buono, se vuoi pulizio, tanti a luce. E se ho parlato le palle, mi copro i pannelli solari, 3 kW a volta, mi ripiazzo, e poi c'è il bianco, il contatore che ho venuto. Ma ci vuole la batteria, che costa un sacco di soldi, mi vuoi qui c'è 7.000 euro la batteria. No, si sono cazzate Gianni. Vai su internet, a me la trovo appena arrivato tempo fa e poi non ho neanche ritirato, a far culo a me. 699 euro, 700 euro. 3 pannelli da 1 kW l'uno, 3, poi batteria e l'inverter, tutto completo. A far culo che non ho ritirato l'anno scorso, porca miseria a me. E ti basta per lo scambabaglio per tutto quanto? Bisogna vedere se regge tutto ciò che hai in casa. Già, nel contatore c'ho 3 kW, quindi i pannelli sono da 1 kW 1, 3 pannelli sono 3 kW, 2 batterie da 150 A più l'inverter 500, capito? Quindi, comunque adesso me lo ordino nuovo e se la piglia all'occhio. Vabbè, se riesci a farlo tu fai la spesa da voce e poi non ti struzzi da già in più, perché questi sono struzzi naturalizzati. Lo so, io faccio così proprio, me lo piazzo io, perché tanto io nelle scuole non mi sono mai solare, noi facciamo la manutenzione, quindi ho visto già tutto l'andazzo, quindi sono a posto, non c'è problemi. Le batterie servono perché automaticamente di notte tira l'energia per il solare, se deve usare corrente, poi di giorno te la ricarica, capito? 3 kW viene pizza per i buchi, lì preso il vaccino. Va. E chi può furare di più? E da una parte dall'altra, nelle già sul telefono, vola, conosce di una vita, mi arrivano 80 euro di telefono, cazzo, e non entra più mai, lo tengo solo perché se devo chiamare al CUP o nei posti dove non si può telefonare con il telefonino mi serve. Ma io l'ho fatto già la presupposizione qua, infatti fuori c'ho il quadretto, ho messo cos'era, un termico da 30 A. Arriva il contatore dal capo dal contatore, arriva sopra al termico, poi c'è l'uscita e ho messo quelle prese maschio e femmina neri che sono industriali, quelle grosse proprio, è castro, tra. Se io passo l'interruttore si spegnerà, non ci occorrete in casa, capito? Oppure si stacca la spina, non lo occorrete in casa. L'ho fatto così, quando metterò, diciamo, i pannelli solari, uscirò con la spinotto che ho la femmina qua, il maschio ce l'ho già, uno nuovo per attaccare al capo e i pannelli solari, dall'inverter e da dentro qua direttamente. E il collegamento tu già fatto, capito? Non manca niente, ma fatto dai pannelli solari e piazzate pure. E ma io devo mettere sul tetto i pannelli così. Cosa? Li devi mettere sul tetto i pannelli solari. No. Faccio il telaio per terra, altezza 1 metro e va a scendere a 20 cm di livello, puntate in alto, sul cielo, in fondo al cortile e ci sta messo, misurato, perfetto. Deve battere il sole, se batte il sole va bene. Voglio che batte il sole qua. La prima cosa che arriva è mettere laggiù. Ho messo l'altro faretto solare, ho messo, adesso ho 600 watt, bisogna usare la calendaria. Infatti quelle delle spese che avevo fatto l'impianto io, con le lampadine a LED, manco le sono usate, va. Rimangono accesi, Bruni e al centro e si spiegano alle 5 del mattino. Ah, c'è un old timer. No, non è un timer. C'è il crepuscolare. Si accende e si spegne. Ah, ho capito. Faccio capito. E poi? E pare per i diritti, questo lavoro qua, capito? Non pare vero. E niente, poi mi sono tagliato i capelluzzi, me lo fate veramente corti, a macchinetta. Ho fatto a barbiere e me l'ha fatti allora. Da 3 sopra al centro e tutto in basso da 2. Sto così bene, gara. Troppo lungo ce l'avevo. Col caldo dovevo farsi i capelli lunghi. No, mi sono bisognato, Maria l'intero cappellone, cazzo, che ti ciuffa da letto, non lo sono andato via. Dai, da tutto. Hai fatto bene. Almeno sei al fresco. Io non me l'ho tagliato ancora, me l'ho tagliato un mesetto fa. No, io me l'ho tagliato 2 giorni fa, sto così bene già. Guardiamo sotto al rubento, fresco, bello, cazzo. Tutta una cosa. Mare non c'è una. Nulla, zero mare. Io ormai il mare non piace. No, io, a me già mi piace. Ma io che ci sono andato qualche volta, al Ghero. Però me ne vado tu, vedi. E a parte al Ghero l'acqua è sempre fredda, già lo sai. Adesso vai. Ma mi ha cancarato, mi si è venuto il crampo. Oggi mi vado due braccia, mi è venuto il crampo dietro nella cuscia. Allora io da ragazzo, 15-16 anni, sono andato a prendere gli scugni, non tanto, poi sono tornato indietro, mi è venuto il crampo, mi è andato a levare il traverso, mi sono asciugato e stavo affogando. No, da quella volta ho fatto come fatto e non entro più in barbuglio e infatti non ci sono più altro a fare. No, perché bisogna tenere la calma, quando c'è il crampo fai il morto, galleggi. Fai passare il campo, poi una volta che ti passa continui a nuotare, non devi agitarsi, se ti agiti è piglio. Come per me pare, io andavo con la compagnia mia in montagna, di vigno, canazzini, tutta un'altra cosa, io dai, più bello. Vabbè, poi specialmente con questo caldo, dica sempre a buio, io quando ero al mare sempre al bagno. Io tutto concepito qua, raga, e io lo stesso, a me non mi piace prendere il sole. O mi metto all'ombra o sto in acqua, mi metto lo sdraio all'ombra, con l'asciugamano sullo sdraio e mi cocco sopra. E poi vado a fare il bagno, se no al sole non riesco a stare, beh, mi metto lo stesso rosso con la pomata, che ho messo al sole, all'ombra e mi metto rosso lo stesso. Sì, sì, da quella della mia suocera, e l'ombrellone, la tenda intorno, sempre all'ombra, e la sera arruia, e tutta la mia da grisoni. E purtroppo così, anche all'ombra prende il sole, gli abruzzi. Perché oggi trapassano tutto, perché la stoffa. Allora è un casino, per carità, raga. Niente, per il resto, non sto facendo proprio niente. Qualche lavoretto piccolino, vestito, vabbè, non più di tanto. Lavoro da 200 euro, roba cazzate, sempre da proprio dove vado io. E vabbè, non funziona questa luce. E cos'era? La Baggio era un deviatore, però non c'era un deviatore. E vai a comprarlo, l'ho comprato, pensato. E mi ha detto, bene, ma 100 euro, già vanno bene. C'è quest'altro interruttore che non funziona, accendi poi e spegnerà, ok, un altro deviatore, pronti, con la scatoletta di Dropbox. Comprato mattina da un'altra, va bene, c'è te, va bene, ok, tutto a posto, mattina l'ho comprato anche lui, adesso fa a posto. Vabbè, se mi sono lavorato così, già va bene, dai. Sì, su mani su mani, per arrotondare. E niente, sto proponendo a tu, guarda, che c'è nel bar alta qua, all'entrata qua, perché ho detto prima era così bello qua, c'è nel bandolino, bisogna tagliarla. Io ce l'ho c'è spettatore, ce l'ho anch'io, e allora quando la tagliamo? E io adesso fa troppo caldo, lo so. Ma li piglio poco io, 25 euro da ora. Vuole che gliela tagli tu, non lo sa ciao. No, lui non è potenziato da 5 anni, è vecchio, ma cammina a stessa dei piedi, fa troppo conto, e tu mi divino si imbragheggia e cangi. La caduccia la ci ho bisogno io, era la doccia, mi ha chiamato. Cazzo, ha peso morto già, era 90 kg, non so, dice peso 70 kg, non 90 le pigiamo. A Giovanni mi faccio l'ernia io, ma cazzo. Ho sentito lo sforzo della schiena, l'operazione che ho avuto, ha detto non mi più. C'è che hai dato una mossa, anche tu con i piedi, puntati. A chi dà ragione non vi la mossa. Già lo so, sì, perché anche io ho sollevato a mia suocera, che era nella vasca, non riusciva a sollevare, sono andato io. L'ho sollevata. Con tanta fatica, però qui sono stato una settimana, mi mangiava il braccio. Beh, tu pensa che ho avuto l'operazione alla schiena, quei tiranti, le viti che ho, tutto quanto, già, ci ho avuto quell'operazione e l'hai messo. Purtroppo, ero tutto lì, non vi più, con la doccia rimane a stipio. Qua dopo ti cucca poi mi cazzo per i piazzi. A che non si deve bruciare, mi sa il piedi, cosa si sceglie a fare? Dopo non ce la fa più a sollevarsi, comunque vengono visti i maneci che si attaccano alle mattonelle per sollevarsi, per la gente anziana. Io lo so, le mattonelle è un po' attaccato sotto liscio. No, invece c'è una doccia che c'ha, la doccia che c'è rimasta in piedi a questa doccia, poi quando è uscito per alzare in piedi, lui non ce l'ha fatta le piedi a saltare fuori, capito? Quel piccolo gradino che c'è, che non gira qua fuori. E lì è inceppato e caduto, perché lui purtroppo strisce i piedi. Quando si è anziani, poi l'equilibrio non è più lo stesso anche. Purtroppo. E quindi ti sono vecchiati le carrogna, e vabbè, però poi tutti quanti andremo ai vecchiati. Vabbè, abbiamo già avuto voce. Niente, non mi sono fatto, non è che non mi sono fatto. Ho provato parlando lì da Lido. Io adesso a settembre posso 70 anni, 70, nel senso un piccolo di tempo, le porti bene, ma io ho già la ciacchi mi puro, ma se per esempio il movimento anche se mi puoi. Ehi vabbè, ma tu dici, che invece ha riduci, chi invece ha, che ce la fa invecchiare, c'è gente che muori io, giovane, chi invece ha già la fortuna. Lo so, molta gente sta morendo, ho saluto un'altra persona che è morta per 28 anni, una cabezzina, ma adesso, 48 anni, purtroppo, io dico questo, io mi auguro, quando mi scende un manzano dico, ancora vivo sono, a me che mi si dispiace sono i cagnucci poverini, vengono quando mi guardano, purtroppo con questi vaccini stanno andando male, stanno agendo, dopo un po' di tempo agiscono questi cacchio di vaccini. Questa amica mia mi ha telefonato, 50 anni quasi col marito, non ha mai avuto nulla. Allora si è fatto i vaccini e si è preso, non Alzheimer, l'altro, come diceva, che si utilizza gli altri volori. Vabbè, comunque non riesce più a parlare, ha detto che l'ha seduto in macchina, l'altro giorno si era portato al ghiero e sembrava che avesse un Lebet, non parlava, sta sempre con lo sguardo fisso, il Parkinson, cazzo, e gli ha detto la neurologa che sta pensando che siano proprio i vaccini, perché dice tutti questi casi di Parkinson non c'erano mai stati. Io ne ho fatto due vaccini perché ho obbligato, stavo ancora lavorando già e non li ho più fatto e non ne posso più e si rabbia a noi. Grazie a Dio, io infatti avevo fatto il vaccino, mi ha preso il Covid, tre Covid, grazie. No, ragazzi, sì. Sono cose sperimentali che hanno fatto, come innanzitutto a fare la prova sulla persona, perché ognuno siamo diversi dall'altro. C'è quello che non lo sopporta, quello che ti riscende a tante persone che l'accompagna che ne lo puoi, no. Adesso stanno dicendo di nuovo che sta uscendo di nuovo l'aumento dei Covid e così la farmacia l'interessa a casciatina. Io non ne posso dire zitto. Io non lo faccio lo stesso. Arrivati a questo punto, sentite tutte queste cose di gente che non c'ha il valore e poi che a me la ritmia cardiaca che mi hanno trovato, io non ho mai avuto nulla al cuore, mai niente. Sì, ma io già, ripeto, questo vuoi ammazzare un bel niente, siccome siamo 9 miliardi sulla Terra e quindi cerco di ammazzarlo un bel po'. E specialmente quelli grandi età come noi hanno dato pensione tutta la massa di quello come noi. Poi le case farmaceutiche, io farsi di là a Iosa, no, già, io ho finito, non ne posso più. E chi viene davanti a me e dice devo fare il vaccino, piglio il pulsetto, che su mano a mano io faccio che tanto che è buona la mente, dico me, sta mezzo e taglio un punto di retaglio, altro che ICIS, ma. Una male di venga, vedi, tu via. Sì, stavo facendo tutto per stabilire la razza umana, ma poi se si rivolge i politici, i vaccini, fanno la finta di morire di leva, letto, l'hanno curato che non c'era medicina ma c'era acqua. Ma io ho visto già dei filmati di Zigaretti, qual era il segretario del PD, ha fatto bene, ci ha fatto il vaccino. Giro, 10 volte si è fatto il vaccino, la camicia è sempre diversa. Vedi che ha preso per il culo, la siringa era anche molta, perché non la potrei neanche vedere, potrei che le tutte le braccia, la siringa, senza ago né nulla. Vai, ammazza, vai, e non se ne hanno fatto vaccini. Cucino si venga. E perché ho pregato quei due la passione, ma non le facevo già. Mio fratello neanche uno l'ha fatto, mi sono detto a battessi. Grazie a Dio non è mai avuto nulla. Sì, ma lo sai cos'è, che eri limitato, non potevi andare nei posti, ti chiedevano sempre questa la carta con i vaccini fatti, eccetera, la tessera che ti rilasciavano. E io non ti facevano entrare se non presentavi questa tessera, quindi è normale che uno li faceva, se devo andare nei posti cosa fai? Nell'ospedale non potevi entrare, negli ambulatori medici non potevi entrare, se andavi a teatro ti chiedevano la tessera, già lo sai che siamo andati in burro in paese, gliel'hai domandato. Era prima obbligato perché al lavoro non c'entra neanche nelle scuole, neanche la ditta ti faceva lavorare qui. Allora se non fate l'indorra, no, me la fotti nulla, dico beh, piglietemi nel culo, tanto mi tiene su e ti vanno con banco avanti, no, me la fotti nulla, c'è la piglia d'occhi, ecco il canna. E vabbè, vado a farmi ammazzata etica, te voglio aiutare. Devo andare a prenotarmi per tagliare le unghie e cagnarsi i miei, quello che c'è via giù per i pascoli. No, io non le taglio perché se le consuma da solo, sta sempre scavando e se le consuma non c'è bisogno. Ma più che altro io devo andare a cercare quello spray per pulire le denti, perché a volte c'è alito cattivo. Io li do, ne compro quell'affare che vedono lì in via Portose, l'isola dei tesori. E ho tipo un coso lungo che solo se lo mangiano e pulisce, infatti l'ha detto un punto non ce l'ho mai carimi. Però quando tu dici c'è la puzzinosa di vecchia faccio un fiaco puzzinoso, a carità. No, c'è lo spray lì, lo vendo anche su internet. C'è questo spray che tu glielo struzzi sui denti e li lavo, poi non li fanno la manco se ingoiano la cosa, non gli fa niente, capito? C'ha un profumo. L'avevo preso già una volta e poi non l'ho più comprato, ma costa un po' i soldi. Vabbè, ma la Francia c'è sempre gas già. Meglio poverino, io devo far sì che loro se lo mangiano. Lo pago, sono 54 pezzi, 13 euro. E poi niente, le compro con le crocchette di marca, le compro anche 18, non ci sono per po'. Però alterno, cioè, crocchette sono sempre fisse, qualche volta compro anche il pollo, arrosto, lo pulisco, piano piano lo divido per tutte e due, e li viaggio bene. E una volta tra le rosbine, mi conosce già quella ragazza, il pollastro per i cuccioli, io sì, e per una femmina anziana vicino a me, e il pollo per il cane, scusi signora, ma lì non lo sta pagando. E allora cos'è che c'è da dire? Io il cane mio, compro il giochino per i piazzi, e se mangiano gabbiale, compro il giochino per i gabbiale, dopo la champagne a me, non te resivi, e se la piglia a luci. Ha fatto due. Ma le crocchette, quelle di uno spin, quelle che costano 10 kg sulle 10 euro, lo guarda, quasi 11 euro costano, sono di marca, sono marcate con la marca di uno spin, però sono di marca, come biscotti e roba del genere. E sono buone perché mi dà un'amica mia che c'ha, praticamente fa volontaria, c'ha i cani di gente che li abbandona, eccetera. Allora lei c'ha una campagna grande, gli tiene i campani, gli dà quelli lì, mette già, i miei cani sono tutti sani, non c'è nessuno malato. Io dico quelli lì perché sono di marca, l'ho letto sul giornale che queste crocchette che io gli do sono di marca e costano 10,90 euro, 10 kg. No, io prendo un altro, non so come si chiama, sono proprio di marca, scritto in verde, adesso il cucino ce l'ho. E poi invece quelle che si gioca la bocca, sempre di marca, della Purina, che fa la marca, la pubblicità che gira i scrupoli per gli animali. Sempre quelli, da quando ce l'ho piccolini, io sempre, adesso ho fatto 5 anni, e fanno novembre, e tiro, hanno sempre quelli, li sto comprando. Trainer, come si chiama? Aspetta, ma tu non sei antico, come si chiama? Le trainer, quelle che rido io, le trainer sono. Io non li stavo dando quelli lì, però mi ha detto di provare queste qua e sono le provo, se vanno bene, le trainer li pago 49 euro io. Si chiama trainer. E trainer, lo so, che c'è una parte che è rossa, che è arancione, una parte che è verde. Sì, c'era anche io li davo quelli lì. Sì, no, l'altro giorno li ho dato quelli. Adesso ultimamente li ho comprati quelli di uno spin per vedere se vanno bene. Se vanno bene le continuo a comprare, se non vanno bene le indoro da Easy Drive. E tu pensa che io due o tre pacche ne ho buttate, le altre ragazze che adesso qua a fianco non le mangiava niente. Anche trai, no, stesso. Loro ne mangio solo al coniglio, la mazza di diverso, i girianti. Glielo penso a maiale, niente, a salone, niente, all'altra, nulla, funzionano se li becchiano. E ormai abbiamo i pacchi piccolini e provavamo a vedere. Ma dopo visto che il coniglio è mio, non glielo fa come umano. Ma io glielo ritengo, non ho salmone al tonno, perché la carne la mangiano ogni già, gliela do ogni giorno, mattina e sera la carne, quindi la mangiano. Le manca solo il pesce e gli do il tonno, capito? Tonno oppure salmone, e quello lo mangia. Ma deve essere mischiato con l'altra roba, se no non li tocca. Poi prendevo quella specie di coso, munge, si chiama scottoletta, lo mischiamo insieme, sembra coniglio e sembra crocchetta, se mangiano in tutto il loro piatto, si dichiarica. E le munge? Sì, sono buone, sono crocchette italiane, sono buone anche quelle, le munge sono buone. A me un periodo le prendevo da uno di russi che ha avuto una fabbrica che deve fare crocchette con la ragazza. Cosa era una ragazzata, ma erano tutte oleose, uno non era più bigliato, l'ho pigliato una volta, non l'ho più preso, te la portavo a uscire a casa. Ecco, è una spesa comunque, già. Sembra così, ma io ho due piccolini, ma è sempre una spesa. Grazie a Dio, sono sani, quindi hanno microchip, vaccino, tutto quanto, poi non riescono mai su, sempre a fare cortine qui. No, grazie a Dio, mi fanno molta compagnia, a me piacciono molto i cani, io sono affezionato a loro. È proprio vero, mi dicono meglio un cane amico che un amico cane, fai calendaria. Ah, quello sì. Eppure il verme si torna in danno di fare l'uso, invece i cani se tu in danno ci fanno le feste, è tutto giamba. Allora, oh, iaia, meno male che c'è gas qua, avevo comprato una bomboletta a 60 euro, dove l'amico tuo piazzami il gas, qui vengo la cranghita, vengo finichita, vengo e sono passati 5-6 mesi, beh, la bomboletta qui, parlando con uno del ristorante che c'è in via del mercato, e ci ha detto sì, qual è? Te l'ho detto quel gas ci avevo, portala. Quanto poi l'ho pagato a 60 euro, quella sigillata, toma 60 euro della giornata. Se la si tranquillo a piazza per un gas, sì. Vabbè, magari figli, sono fuori dalla fila di Lucia. A volte partono, vanno a Sirmione, vanno in giro, capito? Gianni, i figli da gennaio? Magari non se ne ha inventato più, dovevi telefonare di nuovo. Ma cosa, manda il buongiorno, te me fra, ma allora, mi guarda, mi. Sono Sant'Antia, ancora è finichita, vengo e te lo piazzo, tu vittuai. Comunque, però, ma che mio gas qua, sono posto da. Ma perché si è scaricato questo gas? Io ce l'ho ben anni, non si è mai scaricato, funziona sempre bene. Come mai c'è la perdita? No, lui l'ha aperto per vedere che se c'era gas, ha messo lo strumento e è uscito più gas che altro. Mi ha detto, ma non c'è più gas, bisogna comprare la bomboletta. Grazie alla giunta, hai fatto 800 grammi. Ma poi me la sono venduta perché ho provato via accenderlo, grazie a Dio, a freddo, ah, che bello. E un po' di gas già è rimasto. E tu me la fatici. E tu non ce la facevi a metterlo, no, no, no, è difficile. No, ci vuole lo strumento, io non ne ho. Ho capito. Vabbè. Perché... l'unica cosa che faccio nel condizionatore, ogni anno le pulisco il filtro, le lo rimpiazzo e funziona sempre bene. Sempre andato bene. Ma c'è già stato bene, caldo freddo, adesso è freddo. Ho messo a 16 gradi, avevo un freddo, poi viene tranquillo i cambi, spiego tutto, io la camera è bella fresca, che bella, mi richiedo la porta, un po' po'. Ma tu devi calcolare che più di 5 gradi in meno non lo puoi mettere, se no ti puoi arrivare. La temperatura esterna deve essere 5 gradi in meno al massimo. Allora, ti spiego, mattino, ieri ho coperto mia sorella che devo portare nel messore per il cane, devo operarlo per farla sterilizzare. E dove era su, dove c'è il muro, che c'è la rotatoria. Siamo andati lì, questa dottoressa lavora in nero, ammazza di nevaria, le ha chiesto 300 euro, e mia sorella stava andando al banco, ma no, dice... E se no devo far pagare di più, pensa un po'. E mi sono detto, questa goccia, ma è fiacco, fra un po' che c'è la banca Sardegna, mi prelevi i soldi. E se entro dentro, non vedevo l'ora di uscire, tu non ci credi. Sembrava che in realtà non c'era frigorifera. Si sentiva il condizionatore a palla, ma un freddo, quanto qui ci sono macchie a velo. Grazie, ma stiamo scherzando, mi ha un lavoro con ricoglionito e mi veniva, ma allora, c'è un problema di impresa, mi ha messo il sito, lo metto pure a misurità, non ci porterò mai più lì, per carità, e fuori per un cacchio, E comunque non ti ha accettato il banco, faccio per non avere tracciabilità, capito, che l'occhio. Sì, quella dottoressa donna, in nero, capito, mi ha ricevuto di niente, come altro mi ha ricevuto, se non era 350, ho fatto 300 senza poche l'onfia. E stavo parlando, e ma se poi come ha detto giustamente lì, c'hai cani, sì, ne ho due femmine, ma sono accoppiata, non una si era accoppiata, due figli morti e basta, l'altra nulla, niente. E allora mi conviene subito, se me la porta qua, per visitarla, perché... Dopo 5-6 anni o 7 anni massimo, questi che non si accoppiano, i miei tumori vengono al seno, quello che l'altro ascolti. Io, quello che metto nella sorella, che io lo guardo su internet, non c'è scritto, io sono laureato, ascolti, quando muore, pace l'anima sua, ma a me non mi interessa, arrivederci, cazzo a macca, così pure a me si puoi passare, vai. Ma questa cos'è, che dottoressa è, veterinario. Sì, si mette l'aria. Allora, non c'è, è a fianco attaccato a Banca di Sardegna, tu fai quelle due o tre scaline e c'è proprio davanti la vetrata. Entri dentro, capito? La dottoressa è lì, senza ricevuta né nulla, in nero, funzionante di venga. Ah, inviamo le sole, dai, ho capito. All'inizio, dopo il bullismo. Vabbè, fai la rotatore giustamente per iniziare via l'ore sole ed è attaccato al banco di Sardegna che c'è a sinistra, capito? È attaccato, c'è il banco mate e poi all'interno poi c'è il banco di Sardegna. Per fare una visita gli ha preso quei soldi lì. No, l'ha operata, ne ha fatto la sterilizzazione. Ah, l'ha sterilizzato, capito. E quello è il tanto è quello per sterilizzare, sulle 3,50 è. Che anche io per il gatto avevo pagato così. E vabbè, comunque noi avevamo fatto ricevute e tutto, Sì, ma Ghita, 302 se la butta in bucciacca, la pulita e pulita. Ricevuto non è affatto e cicciato. Te ne puoi anche scaricare adesso le cose del veterinario, lo so. Insomma, ma penso, va bene, è tanto così, ma è misurata. Quindi, e poi io so che anche il comune si realizza i cani, No, sterilizzare no. Li fanno praticamente un giorno alla settimana, glielo fanno su, non è comune, glielo fanno su andando nella sala di usino lì, glielo fanno i veterinari, ci sono dei giorni che ti fanno il microchip, eccetera, eccetera, ma la sterilizzazione non lo so. Allora Gianni, i randaggi se lo fanno dopo i figliuzzi, i canuzzi, è un casino, lo fanno gratis. Però i miei c'ho microchip, io sono padroncino di Roma, eccetera, eccetera, niente, io devo pagare, a parte. Io comunque non li sterilizzo, grazie a Dio, stanno bene, carini. Non escono fuori, non mangiano la roba contaminata, non mangiano la posirosa, roba nuda, tranquilli, mangio quello che vedo io, sia buono che le crocchette, poi basta, no? E inoltre che da Iasio io sono laureata, ma esci bene da mezzo, ma a me puoi fotti tu. Tu puoi fotti tutto il mondo, ma a me non puoi fotti, te lo so per dire, mi fa comunque. Sì, laureata, però ladra burla, gli ha detto. Perché tu stai prendendo le tasse allo Stato, lo stai pagando. E allora? Ecco perché hanno infettato il banco matto, funziona della vecchia. Se la chiamano la finanza, ma comunque, vabbè. Perché non lasciano la tracciabilità, se tu paghi col banco, c'è la tracciabilità che tu hai pagato a questa persona e puoi dimostrarlo, capito? Quindi non è conveniente. Lo so, purtroppo è così. Vabbè, dai, se la piglio per paese. Come qua lo stesso, quando fai tutto il chilometro, poi c'è la rotatoria che a sinistra va da Mutimuti giù per via da me, e a destra c'è quella specie di micro chiuso che si mette con un camioncino. Ora è sbriato, ha detto, è lo scontrino, davvero le faccio, mamma mia, allora fa una cosa, vai a dire, hai preso cantato, però c'è una finanza, buona tuo fratello. Ma quello che si mette quello spazio che c'è di fronte alla rotatura. E lui c'è il camioncino, c'è la motocarrozzella, e anche che se per adesso c'è il camioncino più grande, e il nostro è mio, c'ho gli operai, il cazzetto c'è Fantetti, un pendicolo, ma va, ma stai vai. E lui hanno preso la luna e la varamuro, ma è proprio una questione qui, sono luna a vero, sono la luna coltivata da me, questo e quell'altro, ma lì chissà che te la vedi loro, andando a casa era bianca, non si via nulla. Allora io qualche giorno faccio uno scherzetto, mi chiamo la finanza e non me la fotti nulla. Allora, Carapoleno, praticamente, i ragazzi, vediamo che sta qua la signora che c'è di goccia di fronte, un po' a sinistra, dopo il bar, e le cose a mettere il figurino, portava già i panini, non so quanti panini era, se erano i 150 panini, capito? E da poi i ragazzi, una ragazza ha detto, scusa, ma scusi, non te l'altro, no, non ne fa mai scusi, è così. Se mi buco la faccia diciamo la finanza, oh sono tutti finanziati, l'hai fatto un verbale, si è incazzata con la bedella, quella coglione. Perché poi vanno in borghese, fanno la spesa e se non gli dà lo scontrino lo scassano, capito? E hanno fermato i ragazzi, ho detto ma io l'hai preso qua sì, ma scusi ha detto no, non le dà mai, cazzo. Tutti i ragazzi mettono il panino, c'è lo scontrino, la diciamo lì, no io lo faccio. Il negozio scontrino lei deve dare per legge, lo deve dare al ragazzo ogni panino che dà in cassa i soldi, cazzo le ha fatto per male, incazzata lì da qualcosa, con la guidina dice quella e quell'altra. La cassa rimane con un fiscale, con uno fiscale lo deve dare a chi compra, ci sono due gli scontrini che rimangono, uno fiscale e l'altro non fiscale. Peggio paese, a me questa gente mi rompe le palle, che si mettono ricchi sulle spalle dei poveri, cazzo, ma da domani che un pezzino si portano a casa, la madre dei genitori danno le soldi per il panino e non li fa pagare anche il biglietto, tu cazzo, lo fronti non li fai, e tasse non li paga, e si arricchisce così, ma non tennate, sul momento così è già, e questo a me io sono al contrario, queste cose qua. Ma non hai visto le ieri che ne hanno beccato un bar che c'era dentro al tribunale, andavano avvocati, cioè non faceva mai lo scontrino, capito? E l'hanno già mandato la finanza. Sì, l'ho visto quel particolare lì, è poco sono incazzati. Perché sta, altrimenti c'è quanta gente è truffata di raga. Se lo prendono tanto ti arrestano, ti trovano subito, cazzo. Anche chi macchia anni, la mazza gliene varia. Guarda, per fare i soldi come fanno, cazzo, le maci. È una vergogna, cazzo. In Italia siamo, purtroppo. E poi niente, questi cacchio di extracomunitari, è inutile che questo nuovo sito con la scia da cazzo ha fatto, che ha messo un po' di guardia in più, li ha corso. E beh, che cosa ha fatto? Chiesto si butti a parlare davanti alla guerra municipale, pensa un po', che cazzo era, un nigeriano, fatelo conto. Non gliela fotte un cazzo, li devono buttare fuori, è un ghetto diventato già servizio. Capito? La colpa è del prefetto di Sassari e del sindaco. Quindi se loro non s'attrezzano a fare una cosa del genere, siamo sempre casinati. Tra l'altro io l'hanno sparato anche un vigile urbano, lo sai, che hanno ferito un vigile urbano l'altro giorno. Non lo so. Poi c'era una donna che si assistono, non era grande età già. Chi ti ha messo pure il capo, brigava con tutti. Allora ci chiede il razzo, oh, l'ho trovata morta a casa sua. Sai che te, tutta niente era piena di mocca, ia, bu. E da me, da quando lo prima del bar, Gesù Cristo la buca della vita. Sì, ma magari è morta di stessi, dico. Ma l'altro giorno c'era una lisa, l'ho chiamato, c'erano i vigili urbani, li hanno chiamati, sono intervenuti e questo qui ha sparato. Questo vigile urbano l'ha finito alla mano, mi pare, o al braccio, non mi ricordo dove, però l'ha finito. E insomma, è un casino, non fa più perché c'è gente armata, non si può difendere. E beh, difenderti, puoi essere più forte del mondo, prende la pistola e ti spara, cazzo. Sì, per la droga, chi ti dice di essere sopra la droga, non ti viene nessuno, penso, pittura, che deve dare, no, gliene frega un cacchio. Io l'avrei buttato fuori questi animali, la colpa è anche del sassarese che li affitta questa cazzo di magazzini e di case, la colpa del sassarese. Io fossi comune, gli avrei sequestrato la casa, avrei affittato a questi extracomunitari, ok, sequestrata, girami le palle, e se pare condannato pure in galera. E lo sai cos'è? Che quando si fanno un bel po' di surdi, perché si mettono in 4 o 5 in mezzo di bagatelle dentro a cavo, e si fanno i surdi, così, capito? Purtroppo la gente quando va di surdi diventa vacca, non ha mai da figosi, ui ui. E comunque sta diventando un posto solo per loro, perché se ne stanno tutti scappando da lì. Se rubavano anche la roba stessa, figurati, non facevano stendere i pantaloni che li rubavano. Ma se mi hanno rubato l'antennina, mi sono fermato l'antennina, dai, io. Per carità, no. Noia, io va, sono ordinato poi campagna, per carità. E ogni volta che io ando in Chivi faccio sempre un zaccagno appresso. È bello mio, meno grande, il mio servizio a prima balle, le posso avere deciso, l'ho appena fottenuta. Poi c'era quel video che mi visto anche la mamma, che quello era Bozzi contro i vigili urbani, che... oh, da poco l'hanno arrecciato, la mamma non esce più, deve scontare, non so, sono 5-6 anni. Ah, hanno accumulato, io è andato all'improvviso, ha arrecciato, via, 30 carina, la mamma non è più. Era sempre fuori con la bottiglia in mano, capelli corti e corti, la bottiglia di birra. Si chiamava Luca Pino. Ah, Sassarese. Sì, sì. Ui. C'erano mille gente di questo genere qui, no, ma c'era un quartiere che non escono da casa perché c'è questo che prende a pietre a tutti, sfascia le macchine, prende i monopattini che lasciano quelli che usano a noleggio, li prende e tira addosso alle macchine, addosso alla gente. È impazzito questo qua, prende a parolaccia a tutti e dice che il quartiere teme uscire, addirittura non ti ho avvistato la gente, sembra uscire. Stamattina sono sceso mia mamma e lei si dovrà aver San Donato con la ciocomana intorno al nudo nudo e la cazzo si tubù e non vi ho troviaio proprio, per carità. E c'è gente fuori di gamba, dopo col caldo molta gente esce di testa, capito? Magari ha problemi psichici e il caldo gli fa più male che bene, devono stare al fresco perché se stanno al caldo li a capo brutto. Sono mai drogato, tatuato, tutto magro, secco, fevole, droga, per calendario, cazzo, ma tu non capisci, vai. Roy e Yui, subito inizia a telegiornare, mi già, io adesso mi guardo la TV, e mangio una bella fetta di aria fresca, peperone no, domani con l'altro. Volevo farmi i peperoni oggi, ma la sera non le faccio perché sono pesanti. Ok, un po' di roba fresca mi mangio, dai. Ok, grazie per il consiglio. Ci sentiamo. Ciao, stammi bene, fate sentire più spesso. Intanto io entro ufficio, ma non vedo mai nessuno. Ok, ciao. Ciao Duri, ciao, quanto piacere chiamare, dai. Ci sentiamo nel prossimo, dovevo portare giù il cane adesso. Mi devo lasciare qua e porto giù a Tyson. Ok, d'accordo, ci sentiamo. Ciao.